24 di Giovanni Minoli. Ritorna l'incubo Grexit. A meno che, come sottolinea da tempo il Fondo Monetario Internazionale, una volta per tutte si decida che alla Grecia, paese su cui si fondano le radici europee, sia giusto concedere un taglio del debito. Continua a restare al centro dell'attenzione l'ex ministro delle finanze Yanis Varoufakis. Il suo piano per l'uscita dall'euro prevedeva un sistema informatico come meccanismo parallelo di pagamento. Controordine, cittadini europei. Ora il governo di Berlino ammette la possibilità dell'addio della Grecia senza ripercussioni drammatiche sul resto dell'eurozona. Buongiorno, bentornati su Mix 24. Si ritorna dunque a parlare di Grexit. In Germania la vicepresidente del partito della sinistra radicale ha dichiarato che alcuni elementi fanno pensare che l'economia greca possa riprendersi meglio fuori dall'unione monetaria. Intanto Yanis Varoufakis, l'ex ministro del tesoro greco, ha lanciato la campagna nella quale chiede a Mario Draghi di pubblicare alcuni documenti interni alla banca, redatti in occasione della chiusura delle banche greche, ricorderete, del 2015, nel momento più acuto della crisi del debito ellenico. Sentiamo uno stralcio di questo appello di Varoufakis. Nel 2015 la Banca Centrale Europea obbligò le banche della Grecia alla chiusura, come parte del tentativo della Troika di intimidire il nuovo governo e fargli abbandonare l'obiettivo per cui era stato eletto: rinegoziare il debito pubblico del paese, la politica fiscale e l'agenda delle riforme. Dopo la chiusura delle banche, alla Grecia fu imposto il controllo dei capitali, che è ancora in vigore. La BCE ha commissionato un parere legale sulla legittimità di tali azioni. Vogliamo che sia reso pubblico, ma la BCE si rifiuta di renderlo pubblico. Ecco, dunque, se la BCE rifiuterà la richiesta di pubblicare questi documenti, Varoufakis ha promesso che prenderà in considerazione tutte le opzioni, tra cui anche l'azione legale per rendere pubbliche queste informazioni, che sono informazioni vitali per capire come sono andate le cose. Professor Luigi Zingales dell'Università di Chicago, buongiorno. Lei ha ascoltato l'appello di Varoufakis, lo condivide? Sì, secondo me la maggiore trasparenza è molto utile. Quindi Varoufakis, che dice che quello è stato un provvedimento illegale e dannoso, ha ragione? Guardi, sul fatto che fosse illegale non lo posso dire perché non sono un avvocato, certo. Ma proprio per questo mi sembra utile che venga pubblicata la motivazione, così chiariamo i dubbi su cosa è legale e cosa non è legale. Certo. Se questo abbia avuto un effetto, diciamo, di precipitare la situazione in Grecia, non c'è dubbio. Cioè la banca centrale dovrebbe essere il prestatore d'ultima istanza e quindi in situazioni di tensione dovrebbe prestare in maniera automatica. In questo caso non lo ha fatto. No. Non lo ha fatto perché c'era paura di un'uscita della Grecia, ma bisogna capire allora che prestatore di ultima istanza è se nei momenti di crisi non serve. Certo, però qualcosa di strano infatti è accaduto, perché e sta accadendo tuttora con la Grecia, perché non è possibile che dal 2009 a oggi si sia arrivati al punto che Atene è ancora a rischio di fallimento. La Grecia ha manipolato i conti ed era insolvente nel 2009. Esatto. E invece di riconoscere che era insolvente e trarne le conseguenze, si è cercato di ignorare e posporre il problema. E quindi il motivo per cui siamo ancora qui è perché il problema non è stato affrontato. Cioè la Grecia sostanzialmente era già condannato e si è fatto finta di non vederlo. Esattamente. Ma quando un creditore è insolvente si sa che alla fine i debiti non li paga. Certo. E quindi in questo caso invece si è fatto finta che come debitore potesse continuare a pagare i propri debiti e in realtà i debiti sono stati trasferiti alla comunità, perché i debiti erano posseduti da per la maggior parte di istituzioni private che avrebbero dovuto pagare il costo degli errori di questa la Grecia. Prevalentemente istituzioni private tedesche che hanno scaricato sull'insieme della comunità. Francesi e tedesche. Quindi sostanzialmente hanno scaricato sulla comunità i loro crediti. Ecco, la prima tranche di aiuti fu di 110 miliardi. poi ne sono arrivati altri, siamo arrivati a 350 miliardi. Se sono soldi realmente buttati, non sarebbe meglio dire basta, zero, si ricomincia? Sicuramente sarebbe meglio a un certo punto ammettere e tagliare tagliare parte dei debiti, cioè i debiti che oggi alla Grecia sono insostenibili come lo erano 7 anni fa, 8 anni fa quando questo è successo, e quindi prima o poi bisogna riconoscere questo errore. Purtroppo c'è un aspetto politico importante che nessuno vuole fare, almeno lo vuole fare prima delle elezioni. Certo. Quindi, questo è il vero problema. Un nuovo governo in Germania, se fosse eletto Martin Schulz, un nuovo governo in Germania lo farebbe. Dovrebbe farlo più facilmente, scaricando la colpa sulla Merkel. Certo. Senta, quindi se uno Stato non può decidere di tenere le banche aperte oppure chiuse, la sovranità vuol dire che è sparita completamente, diciamo. Non c'è dubbio che noi, quando abbiamo aderito alla moneta comune, abbiamo rinunciato a parte della nostra sovranità. Il discorso non è tanto se abbiamo la sovranità o no, perché non l'abbiamo. Ci abbiamo rinunciato, certamente. Però il problema, secondo me, è fondamentale. Non è tanto se abbiamo rinunciato alla sovranità, quanto se, come area comune, abbiamo dei meccanismi per far fronte a situazioni di questo tipo. Non ci sono. Cioè, il vero problema della moneta comune non è tanto la moneta comune in sé, quanto che è stata fatta come una scelta di volontà di buttare il cuore oltre l'ostacolo, non pensando nei dettagli a tutti i problemi che questo creava. E quindi tutti gli ostacoli stanno venendo fuori uno per uno adesso, con chiarezza. Esattamente, e non c'è una volontà politica di risolvere questi ostacoli, perché volendo si possono risolvere, non è che la situazione sia tale per cui non si possono risolvere. Però se non c'è la volontà comune, allora uno si domanda che cosa stiamo a fare insieme. Certo. Ecco, ma non sarebbe intanto giusto pubblicare i dossier segreti della BCE relativi a queste decisioni? Sarebbe una cosa, un segno di trasparenza della BCE almeno? Sicuramente. Io sono sempre a favore della trasparenza, in questo caso a maggior ragione. Possono essere delle situazioni in cui la banca centrale deve magari mantenere della confidenzialità, eccetera, ma non mi sembra questo. Cioè, questo vogliamo sapere qual è il potere legale della Banca Centrale Europea. Mi sembra che questo sia nel diritto di qualsiasi cittadino e di qualsiasi Stato. Quindi Draghi ha deciso di pubblicare le minute delle riunioni, eccetera, però questo non ha fugato i dubbi dell'opacità dell'istituzione. Diciamo che le banche centrali nascono come istituzioni esoteriche. C'era la famosa frase di Greenspan che diceva un giornalista: se lei ha capito, non mi sono spiegato. Quindi c'è questa tendenza ad essere esoterici. Però stiamo parlando ormai di un mondo molto diverso. Cioè, nel mondo di oggi, se le banche centrali non si fanno capire, finiscono per perdere credibilità politica. Esatto. E quindi è un danno molto molto forte, quindi sì. Secondo me il bisogno di trasparenza è una necessità della sopravvivenza proprio. Assolutamente. Senta, assolutamente. Torniamo un secondo alla Grecia. Sarebbe da fare, cioè bisognerebbe fare un ulteriore taglio al debito, oppure dire, come dice lei, probabilmente dopo le elezioni in Germania, se vincesse Schulz, dire vabbè, abbiamo scherzato, si ricomincia? No, non scherzate, si ricomincia, però dire ci siamo reso conto che la situazione non è sostenibile e quindi devo tagliare parte del debito. Comunque Varoufakis è stato accusato anche di tradimento perché aveva preparato un piano per stampare nuova moneta, però visto quello che sta accadendo forse non è che aveva tutti i torti. Secondo me un ministro ha il dovere di studiare delle contingenze anche remote, anche improbabili, nel senso che, cioè soluzioni B e C dei problemi. Esattamente, non può trovarsi di fronte a una situazione di crisi, eccetera. Il discorso è che non è facile tecnicamente e può essere devastante farlo malamente. E non è ovvio che la burocrazia greca ha della capacità di farlo. Cioè, senta, Bruce, la Grecia deve restituire comunque 7 miliardi di dollari entro luglio, non li ha, che si fa? Fallisce. Ma intanto non sono sicurissimo che non li abbia. E poi comunque, cioè, ormai viviamo quotidianamente, annualmente, queste crisi. Il discorso, se c'è la volontà politica, si manda avanti, non è che questo sia il vero problema. Il vero problema è che la Grecia non cresce da 7 anni, 8 anni. Certo. La Grecia ha avuto una depressione che è superiore a quella che hanno avuto gli Stati Uniti negli anni 30, cioè sì. Quando un quarto della gente è disoccupata e metà dei giovani sono disoccupati, questo non è sostenibile. No. Senta, professor Zingale, la Commissione europea ha dato all'Italia fino ad aprile per varare la manovra correttiva di 3.4 miliardi, però il PD lo sappiamo è scisso, il governo è debole, nessuno vuole fare i tagli, mettere tasse. Lei qui da noi qualche settimana fa ha detto che siamo in una condizione da rischio default, lo conferma mi pare, no? Beh, sì, lo siamo nel lungo periodo, cioè non abbiamo dei problemi di liquidità nel breve ancora, però nel lungo periodo se l'Italia non cresce il debito non lo sostiene. Senta, e siccome la crescita dell'Italia, cioè negli anni in cui tutto è andato bene, petrolio basso, euro basso, tassi bassi, siamo arrivati cosa, al 0.8-0.9%? E negli anni negativi perdiamo 2-3 punti, e questo non è sostenibile. Certo. Senta, ma ci dobbiamo preparare a una guerra politico-monetaria tra Germania e Stati Uniti? Fino adesso avevamo un presidente degli Stati Uniti che mediava, cercava di, anzi, calmare alcune delle posizioni particolarmente severe della Germania. Certo. Oggi non solo non abbiamo un presidente degli Stati Uniti che media, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che soffia sul fuoco. Certo, anzi, che dice che l'euro è un marco travestito. Beh, se fosse la cosa peggiore che avesse detto, non mi sembra che sia la cosa peggiore, no. Purtroppo ne dice di tante, ecco. La peggiore qual è secondo lei nella guerra fra Germania e Stati Uniti? Beh, il tono apertamente antitedesco secondo me è preoccupante, perché la Germania è sempre stato un solido alleato degli Stati Uniti, e quindi irritarlo e mettersi in condizioni negative senza un motivo chiaro e senza una strategia chiara, per me è devastante e non fa che aiutare la Russia. Io vedo con grande preoccupazione il potere russo, perché non è un paese democratico, perché Putin è una persona inaffidabile, e il maggior potere alla Russia e più preoccupato io sono. Perché dice inaffidabile Putin? È una persona che, guardiamo come si è comportato in Ucraina con la Crimea, guardiamo come si comporta con gli oppositori interni, cioè è un dittatore travestito. E quindi avere un rapporto di amicizia, un rapporto preferenziale con un dittatore travestito, quando invece si trattano male paesi che hanno una grande tradizione democratica come la Germania, che dopo la tragedia della guerra però ha fatto delle cose meravigliose, secondo me questo è un grande errore politico, e questo è molto costoso nel lungo periodo. Senta, ma se Marine Le Pen vince in Francia l'euro salta secondo lei? Purtroppo Marine Le Pen è un po' come Trump, non sappiamo veramente che cosa farà. Certo, esatto. Però se il buon giorno sia del mattino o il cattivo giorno sia del mattino, mi sembra che i rischi per l'Europa sarebbero veramente seri. Ecco Mario, mi sembra che la crisi non abbia delle soluzioni immediate. No, perché Zingales da economista però ha fatto un'analisi in realtà molto chiara, molto precisa. Molto precisa e politica, perché il problema appunto è tutto nelle cosiddette cancellerie europee. Dobbiamo aspettare le elezioni in Francia. Per adesso c'è l'immobilismo. E quelle in Germania, ecco. E poi vedremo. Pietrangelo, c'è questa opposizione storica tra i paesi del Mediterraneo e i paesi del Nord. È una distanza culturale che diventa sempre più incolmabile in qualche modo? Io non credo, nel senso che una distanza culturale incolmabile forse c'è molto più con i paesi di area anglosassone che di quella di area germanica, nel senso che anche storicamente noi abbiamo pagato pegno e sofferenze atroci nella storia che non sono mai state raccontate proprio a causa della politica dell'Inghilterra nei confronti del Mediterraneo. Quindi, non certamente l'anglosfera è l'anglosfera più... non certamente la Germania, che invece ha un legame profondissimo proprio col Mediterraneo. Ecco, Tobias Piller, buongiorno, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, non so se l'ho detto bene, a Berlino stanno mettendo, abbiamo sentito Zingale, insomma, sta mettendo l'elmetto per questa guerra economica tra Stati Uniti e Germania, tra gli Stati Uniti di Trump e la Germania, è così? Certo, c'è incertezza, ma io scommetto che si cerca di comunicare da un lato i principi e dall'altro lato così l'idea tedesca che da una guerra contro l'Europa, non solo contro la Germania, contro l'Europa, l'America, che finora era così il leader del mondo libero, del mondo democratico dell'Ovest, l'America può solo perdere. Però Trump mi sembra molto determinato e molto, come dire, molto duro. Sembra finita questa alleanza storica tra la Germania, prima che l'Europa, tra la Germania e gli Stati Uniti, perché la Germania viene vista proprio come in qualche modo la punta di diamante di questa guerra. L'America una volta era così un paese molto, molto sproporzionatamente molto più forte, molto più ricco del resto del mondo e anche del resto dell'Europa. Adesso l'America può avere un ruolo se si mette come primus inter pares di tutto questo mondo che si chiamava il Ovest. Così. Però non è la linea che Trump sta sviluppando. Quando dice che l'euro è un marco travestito, certamente non fa un'affermazione a favore, come dire, di una pacificazione dei rapporti. Vabbè, è stupido e falso, ma comunque il punto è quello. L'America da sola non conta più così tanto come una volta e il resto del mondo si è sviluppato così, in qualche modo si pensa che si può fare anche a meno dell'America. Ecco, così. Però Piller, il surplus commerciale della Germania è un dato di fatto, ha toccato nel 2016 un nuovo record superiore a quello della Cina. Ecco, non si può negare che c'è qualcosa che non va in tutto questo, perché anche l'Unione Europea dice che la Germania deve correggerlo. Vabbè, non è neanche sempre un gran vantaggio per la Germania, perché di fronte al surplus così vuol dire che la Germania esporta beni, così i tedeschi lavorano, esportano beni, hanno dei soldi in cambio e i soldi poi li prestano al resto del mondo e tante volte restano fregati. In realtà li trattengono un surplus, non so chi racconta questa balla, sì, che c'è chi scrive in Italia come se si fosse così a Papparone che si fa il bagno nell'oro così e lo però, fanno adesso tedeschi. Però abbiamo capito che i soldi, come dire, per quello che riguarda la Grecia, prima si sono, come dire, ripresi i loro prestiti alle banche tedesche e francesi prima di creare il problema. Cioè, tutta l'Europa ha pagato quei rimborsi. Anche questa è una balla? Questo non ho detto che è una balla, ma possiamo chiarire prima quest'altra roba, così se avete così l'accortezza a vedervi così le statistiche OCSE sui investimenti diretti all'estero della Germania, trovate che dal 2010 al 2015 la Germania ha investito 1.100 miliardi di dollari fuori dalla Germania. E questo surplus? E questo è l'altro lato del surplus, così non poteva farlo senza avere lo surplus, solo purtroppo ha investito solo 3% in Italia, perché in Italia al momento non investono molti. No, è vero. Altrimenti l'Italia sarebbe un grande beneficio, sarebbe beneficiato di questo. Però comunque, non capita. Senta, ma i tedeschi pensano che sia arrivata l'ora di tornare al marco, non un euro mascherato, ma un marco puro, insomma, e basta? Ma i tedeschi si sono trovati davanti così gli italiani come ciampi, che dicevano così dove bisogna condividere la gestione della moneta. Certamente vi assicuriamo che l'Italia farà un sacco di riforme per sopravvivere in questa nuova competizione e per essere così forte. Senta, e dall'altro Tobias... lato non sarà una lira, perché quale tedesco avrebbe voluto abbandonare il marco e avere un euro lira? Ah, non lo so. Adesso io mi dite così l'euro doveva essere una lira così. Ma anche tanti italiani non volevano entrare nell'euro chiamato marco. Non lo so, anche voi potevate dire prima che non volevate entrare nell'euro. Non so chi doveva dire prima che voleva. Senta, la BCE non ha chiesto nessuno, neanche purtroppo agli italiani. Senta, la BCE è guidata da Mario Draghi, lo sappiamo tutti, però il presidente della Bundesbank Vindman critica sempre più la politica di Draghi. È perché la Bundesbank fa solo gli interessi dei tedeschi? È normale. La Bundesbank esprime certamente quello che sono interessi della politica monetaria tedesca, che è una moneta stabile, e poi anche ricorda i trattati vecchi, che in Italia certamente dice buttiamoli alle ortiche, che la banca centrale non deve comprare titoli di Stato perché così crea inflazione. Cioè lei è contro il quantitative easing di Draghi? È una politica troppo estrema, è la vecchia storia del principe quando aveva in mano anche la stampa della moneta. Così toglieva sempre un po' di oro, un po' di argento e faceva delle monete più semplici, più leggere. Senta, gente, no? Senta Piller, Martin Schulz ha fatto un recupero prodigioso nei sondaggi, in 4 settimane, i sondaggi valgono quello che valgono, però in 4 settimane ha guadagnato 12 punti, secondo lei perché? È un effetto novità. Solo l'effetto novità? Assolutamente sì. Cosa piace della sua campagna, a parte l'effetto novità, che non è che è bellissimo, Schulz? Certamente è una novità, perché tanti socialdemocratici erano demotivati, poi rimanevano a casa, votavano così i nazionalisti o votavano i comunisti. Allora adesso qualcuno è di nuovo motivato a votare socialdemocratico. Però è un recupero fortissimo, 12 punti. Assolutamente sì, ma il punto è che bisogna vedere che il grande vantaggio è adesso non si vedrà più una campagna elettorale di una grande coalizione contro i fascisti e i nazionalisti, ma si vedrà una campagna elettorale nel centro. E questo è un gran beneficio. Ma la Merkel può perdere, secondo lei? La Merkel e i suoi la vedo nervosi, ma secondo me giustamente dicono prima di tutto non si può rimanere una novità fino a settembre. Poi prima o poi anche i programmi di Schulz saranno discussi e dopo fino a settembre succederanno ancora tante cose. No, ma lei prevede una possibilità di sconfitta oppure no? Il problema è quale è la coalizione per governare, perché per Schulz diventare cancelliere deve fare una coalizione con i Verdi e con la sinistra estrema, con i vecchi comunisti della Germania dell'Est. E allora proprio a quelli sta togliendo il voto. Allora la domanda è, loro insieme, questi tre, potrebbero mai avere una maggioranza di 50%? Senta, ma secondo lei la Merkel si sta avvicinando di più a Putin, vista la situazione con gli Stati Uniti? La Merkel vede molto criticamente Putin. La Merkel era così nel unico governo democratico della Germania dell'Est, vice portavoce, è sempre stato portato in Russia dal primo ministro perché sapeva così bene il russo. E Putin era una spia russa sul terreno della Germania dell'Est. Si conoscono molto bene anche psicologicamente. Sì, certo. E non si fida di lui. Senta, torniamo alla Grecia. Ha sentito Varoufakis, ha chiesto di rendere pubblici i dossier che hanno portato alla chiusura delle banche nel 2015. Alla luce di quello che sta accadendo adesso, non è che Varoufakis aveva un po' ragione e Schäuble un po' torto? Ma la cosa è se la Grecia era fallita e si è detto la Grecia, vogliamo risparmiare la sorte dell'Argentina, della Grecia, così veramente fame per molti mesi, difficoltà di ricostituire istituzioni finanziarie e così via. Allora per questo servivano tutti questi crediti, ma a un certo punto proprio Varoufakis e questo governo hanno di nuovo fermato tutto quel processo di ma riforma. Secondo lei alla fine era meglio farla fallire la Grecia? Secondo me non si poteva affondare la Grecia nel Mediterraneo, allora bisognava dare un segnale di solidarietà, ma Varoufakis sbaglia del tutto, perché non si può dire così, allora lasciamo le banche aperte, tutti i greci portano i soldi dalle banche, no, ma d'accordo, dalle però... banche in Svizzera e poi europei arrivano e pagano così il conto e mettono soldi freschi nelle banche greche, così. Volete... voglio dire che l'Europa o c'è o non c'è, si devono condividere anche i vantaggi e gli svantaggi, no? L'Europa ha prestato 250 miliardi di euro, sì, alla Grecia, di cui un 10% sono anche dell'Italia. Sì, si lo deve so anche bene. Vedere se vuol fare così, cosa vuol fare di questi 25 miliardi che l'Italia ha prestato alla Grecia? Ma insomma, vale la pena separarsi o no a questo punto, visto che il problema è sempre lo stesso? Ma la Grecia ha io seguo da 5 anni la Grecia, sì, anche, e la Grecia ha tutta la possibilità, come l'Italia, di essere un paese che sta in piedi da solo e anche diventa benestante, ma con un governo che sarebbe, avrebbe un vendolo ancora come moderato, illuminato, un governo di gente senza esperienza, ideologi certamente, chi vuole investire in Grecia e quale imprenditore greco vuole investire oggi? Vabbè, non ho capito se alla fine che cosa è meglio. Alla fine io penso che la Grecia, la storia della Grecia non è ancora deciso. Tra 2 anni finisce Tsipras e arriva un governo più riformista con quel nuovo leader dell'opposizione, la Grecia potrà riprendersi e la cosa finisce bene, se no la Grecia finirà molto male. Grazie, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, insomma, Tobias, mi pare che resta in mezzo. No? Sì, no, giustamente. Segnalo una notizia, sta proprio perfetta per quello che abbiamo discusso fino a un secondo fa. I conti pubblici della Germania hanno segnato un surplus di bilancio nel 2016, sono i dati appena usciti, pari a 23,7 miliardi di euro, livello record dal 1990, anno della riforma. Vabbè, ma abbiamo sentito che bisogna tenerli lì e non darli a nessuno, più o però meno. Questo vuol dire che loro, allora certo, quello è il surplus commerciale ed è una stortura che però nessuno vuol correggere, eccetera. Qua questo è il bilancio dello Stato, cioè è inattivo, sono bravi, c'è niente da fare, Pietrangelo, sono bravi, sono io bravi. Mi limito a rilanciare quello che Giulio Tremonti sta dicendo in questo periodo, avanzo, sì, capito, e cioè vogliono farci fare la stessa fine che il Piemonte fece fare al Regno delle Due Sicilie. Il Piemonte per interposta Inghilterra, vorrei ricordare. Scusate, chiudo. Mentre questi fanno l'avanzo di bilancio, cioè noi no, e i giornali oggi, tranne il Sole 24 Ore che ci ha giustamente aperto, e forse qualche altro, cioè il fatto che dobbiamo fare una manovra da 3,4 miliardi entro aprile e non si sa non come interessa la facciamo, molto. Non interessa a nessuno. Il solo Massimo Gramellini stamattina ha evidenziato sul Corriere pezzo che c'è un Presidente del Consiglio silente, che è muto, perché non può parlare, sa che dire, ecco, anche perché ho l'impressione che al Senato ballerà la rumba. 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, arriva, ecco, ci siamo. Flowers, sweet rose. Allora, e oggi la campagna ha preso possesso della città. Ognuno è andato a cercarsi angoli di pace dove fare luce, rumoreggiare tutte le allegrie di una giornata bella, appunto scampagnata e gita. Ha chiamato Carlo Goldoni, ha chiesto questo brano per la locandiera con un messaggio. Andiamo, Ismanie? Una famosa opera di Carlo Goldoni. No, la locandiera. Poi ci fu anche una versione di Tinto Brass. Diversa. Sì, un po' castigata. La locandiera castigata di Tinto Brass, famosissima. Grande Tinto Brass. Allora, Mario, c'hai una bolla? Andiamo in America per parlare d'Italia, purtroppo. Secondo me in regia sono impazziti. Che ore sono? Le 9.40? Che ore? Ma che è musica a mettere alle 9.40? Sentite? No, dai, va bene. Questo è Give It Away. Bene. Allora, Giovanni. Dimmi. Titolo d'apertura della stampa stamattina. Sì. Sul serio, è il titolo d'apertura. Renzi in USA. Cerco idee antipopulisti. Ora, io dico, è meraviglioso. È andato a cercare idee antipopulisti in California. Beh, giustamente. Se andava negli altri stati non le trovava, perché Trump ha vinto proprio per quello. Allora, in California. Dove stanno preparando la resistenza. Sì, resistere. Nei bunker, si fanno i bunker per non essere assaliti da chi, da quelli che può venire, hanno perso il lavoro, non sanno cosa. Vabbè, insomma, ricevuto dall'elite high tech, che ha la seguente regola, poi insomma ci sono numeri, io non li cito per non annoiarvi, ma insomma, prova di bomba, come suol dirsi, cioè bolla high tech e meno buste paga, più utili e loro diventano più ricchissimi. Ricchi. Per carità, tutto lecito, però poi c'è il piccolo problema appunto di come sistemare la società. Vabbè, no? Insomma, lui è andato a cercare idee, sì, però per fortuna almeno va a cercare idee, gli altri sì, non le hanno e non le cercano. Posso dire, intanto di idee è pieno anche in Italia, insomma, idee sul lavoro e così via. Poi, secondo me, ha dei cattivi consiglieri, perché in realtà, se tu vuoi capire come funzionano le cose adesso, dovevi andare nell'epicentro della crisi, che ne so, nei caseifici del Wisconsin, tra i minatori della Pennsylvania, il centro mondiale. Sta facendo un giro, ci arriva. Il centro, scusa, ma vai in California, ma tu devi andare al centro, vai in California. Ma me lascialo andare almeno dove vuole, scusa. Ma ci è già andato, è tutta, Giovanni, la diciamo tutta, è una enorme supercazzola propagandistica, perché lui ci è già andato e ha fatto bene, e scrissi anche su questo, non è un problema. Bravo quello. Che hai scritto. Sì, ma adesso no, ma tu se vuoi trovare le idee antipopuliste devi andare in Michigan, dove allora, c'è il centro mondiale dell'auto, e ti fai spiegare perché gli iscritti agli United Auto Workers, cioè hanno votato Trump, ma tu devi capire quello. E se il segretario del più grande partito della sinistra europea, se non capisci questa cosa qua, non lo puoi continuare a spiegare ai tuoi potenziali elettori così. Salamino! Chi parla di umanità prepara un inganno. In principio il 16 febbraio fu Zuckerberg, l'inventore di Facebook, una nazione ormai di miliardi di individui, sì, che lanciava il programma di comunità globale. La canzone non si sente. Non si sente la canzone. Comunque, Oggi altri due cavalieri dell'apocalisse, Bill Gates, che è l'uomo più ricco del mondo, e poi Bono, star del rock, da Monaco di Baviera, illuminatissimi, sono stati intervistati, caro Giovanni, da tre sacerdoti del pensiero unico e va da sé globale. E chi sono? Quelli che dicono amore, amore, amore per salvare il mondo. Ma praticamente è una paginata di Repubblica firmata dal direttore Mario Calabresi, che è uno degli altri sacerdoti, e sembra di risentire il Verdone di Borotalco. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose: love, love, love. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente. Ed effettivamente uno se lo immagina Calabresi messo lì tra Bill Gates e Bono: amore, amore, amore. Oh, hanno inventato sta sigla One, manco a dirlo, che risulta assai comoda per pensare una sola cosa, dire una sola cosa, realizzare una sola cosa, che sarebbe poi amore, amore, amore. Ed è la missione di redenzione dell'umanità sotto le bandiere, va da sé, negli Stati Uniti, Donald Trump permettendo, perché la filantropia che cos'è? È l'apoteosi dell'apoteosi dell'umanitarismo, quindi un doppio inganno, perché sta comunità globale, Giovanni, che c'è la foto di Bono che imbocca un bambino scovato tra i disagi dell'acqua marcia, le scuole distrutte, i focolai di tubercolosi. Ma è meglio di niente, però. Eh sì, però io faccio appello al Cardinal Biffi, ci impone di prendere il libro di Soloviev. Soloviev cosa diceva? Leggiamo Soloviev, perché la conciliazione di tutte le contraddizioni ci porta al racconto dell'anticristo. A chi assomiglia questo anticristo? Quando Massimo Cacciari era in collegamento una volta, sentì uno che cantava così: io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Allora c'era questo che cantava e Cacciari in collegamento dice: ma chi è questo? L'anticristo? Eccolo, buon ultimo giovanotte, io ho scovato i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Ma intanto vorrei... domanda che ci domandiamo, domanda che si è domandata Mario prima: che ci va a fare Matteo Renzi? Ha lasciatelo stare in California. Lo so che ci va a fare. Ma poi scusa, guarda, ascolta: vino buono, vino sano, questo vino americano, se vuoi prendere una sbornia, vino della California, vino buono, vino sano. Neanche in America, a vedere come funzionano le cose che funzionano, lo lasciate andare. Basta, basta. Sei andato dal capo di Tesla. Che basta, spara razzi nello spazio e vende autoelettriche per i miliardari. Fai questa tua bolletta, ma dai, fai sta bolla. Facciamo sta bolla. Liberté, égalité, cabaret, che è l'altro bel pezzo della contemporaneità che noi stiamo osservando con un divertimento, guardate, assoluto. Allora, Giovanni, come va a finire secondo te? Dove? In Francia, dove? In Francia è duretta, dura. È duretta. Tu Pietrangelo cosa ne pensi? Non ce la farà. Non ce la farà perché a differenza di Trump lei non ha l'appoggio di Israele. Questo non lo so, se io non so se ce la fanno, anzi io penso che Macron abbia tutti i favori del pronostico per il secondo turno, ma ragazzi è un candidato che è spompato, ma più ha spompato, preso una legnata. Talmente spompato non si può vedere. È uscito un sondaggio ieri, l'ennesimo, va male, Marine Le Pen va molto bene, più 27,5%, il primo turno è strasuo, la Francia sarà salvata per fortuna o no, dipende da come la pensate, questo non è una cosa che voglio dire io, diciamo, al secondo turno probabilmente dall'Union Sacrée. A mio avviso restano tutti i problemi culturali della Francia, nonché economici, non so se sei d'accordo Giovanni, cioè il fatto che salvino l'elezione probabilmente non significa che salveranno la Francia e i francesi. Beh, ma qui da salvare in Europa sono tanti. Molti. Però l'elezione è molto interessante. Ma questa volta l'Europa è realmente centrale nel mondo, perché come va a finire l'Europa, sì, beh, sposterà influenza. In modo definitivo gli equilibri, sì, almeno per un bel po' di anni. Poi sai, adesso magari io sbaglio, non lo so, però anzi è molto probabile che sbagli, però io sono molto infastidito, ti dico la verità, dal fatto che tutto venga liquidato come populismo. No, perché... no, vabbè, ma quella è una parola che abbiamo deciso di non usare, perché più. Sì, ma il populismo non vuol dire niente, cioè... se uno vuol dire nazionalismo vuol dire bisogno di radici, un altro discorso. Sì. E poi ciò che viene dal popolo non è che è per forza cattivo. Io ricordo che Tocqueville diceva: non è perché una persona è bassa che voglia dire che ha anche il cuore basso. Cioè, bisogna stare attenti a liquidare le cose. Ricordati che gli ultimi così. Saranno i primi. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, SMS, pubblicità. Mix 24. La gente ama le favole. Sei pronta? Certo. E lei? Io credo che i personaggi di cui leggiamo finiscano per diventare più reali dell'uomo che ci sta accanto. Allora ho urlato: Jack, Jack, riesci a sentirmi? Jack, ti amo, Jack. Come vorrebbe che fosse ricordato? Dovevano esserci più cavalli, più soldati. Perché fa così, signora Kennedy? Più lacrime, più fotografi. Ci fanno sembrare dei barbari. Che problema hai? Non è tenuta a farlo. Io accompagnerò Jack. Presentò! Da sola, se necessario. Non sono più la First Lady ormai. Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito, John Fitzgerald Kennedy, venne eletto presidente degli Stati Uniti. Giovane, elegante, affascinante e misteriosa, Jackie diventa subito un'icona in tutto il mondo e il suo stile un modello per le donne di ogni tempo. Ma l'immagine di Jackie che è passata alla storia è quella del 22 novembre del 1963, quando il cappotto rosa di Jackie si imbratta del sangue del marito ucciso al suo fianco nell'auto presidenziale. Dunque, per la storia, nel giorno dell'uscita in Italia del film Jackie, noi vi proponiamo un ritratto di Jacqueline Kennedy. C'è una notizia, Mario? Sì, no, adesso si cominciano a chiarire meglio i dubbi che avevamo sollevato anche qui noi sul salvataggio di Montepaschi. Ti ricordi che avevamo avuto una discussione io come e te, no? In cui io dicevo: ma Giovanni, che fine ha fatto il salvataggio? È da dicembre che non succede niente, eccetera. Bene, è tutto nel limbo, perché il Financial Times pubblica adesso sul suo sito, ho visto, il lieve fatto che c'è una differente, profonda divisione tra quello che pensa la Banca Centrale Europea su come debba essere fatto il salvataggio, il bailout, e quello che pensa la Commissione Europea. Questa è una roba... Cioè, uno scontro fra la Commissione Banca Centrale Europea. Quindi gli accordi che Padoan ha preso con la Commissione in realtà non vanno bene alla Banca Centrale Europea. E che cos'è che non va bene? Quello è il punto. E su come fare il bailout? No, ho capito. Non c'ho il dettaglio. Okay. Anzi, questa è la cosa adesso da scavare nelle prossime ore. Perché, certo. Perché chi paga, come vengono ripartiti i soldi e soprattutto, appunto, se c'è una ricaduta e che tipo di ricaduta sui risparmiatori. Perché se si applicano le regole europee, quelle prevedevano la partecipazione un po' di tutti. Quindi è da capire. E il supervisore comunque è la Banca Centrale Europea in questo caso. Quindi decide Draghi. Sì, secondo me è abbastanza cosa. Guarda, cita la parola di uno, di una fonte financial, che dice: è una situazione surreale. Sembra. Sarebbe interessante sapere dal governo, non se... Allora, il presidente del consiglio ex, ha detto di comprare i titoli, quindi siamo tranquilli. Lo disse. Poi non lo è più ed è in America a studiare come si evita il populismo, eccetera. No, ma è là. Però sarebbe interessante invece dal presidente del consiglio in carica o dal ministro dell'economia capire che cosa sta succedendo, soprattutto alla luce di questo articolo, certo, che è pubblicato non da una fonte che dà fake news, diciamo così, ma dal Financial Times, che insieme al Sole 24 Ore è uno dei principali giornali economici d'Europa. Insomma, quindi adesso con il professor Roberto Bernabei, come tutti i giorni commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, novembre 2016. Un confronto tra la prevalenza di demenza nel 2000 rispetto al 2012. La demenza è una malattia età correlata e siccome aumentano i vecchi, l'assunto dovrebbe essere che la demenza aumenta percentualmente nella popolazione. Molti studi invece suggeriscono che c'è stata una diminuzione della prevalenza di demenza. Allora, per capirne di più, sono stati studiati 10.000 ultra 65enni da un campione rappresentativo, sempre negli USA, 10.500 nel 2000 e 10.500 nel 2012. In questi due gruppi da 10.500 sono state valutate la sfera cognitiva e tutte le performance cognitive, sapendo che quelli del 2012 avevano un anno di scolarità in più rispetto a quelli del 2000, quindi diciamo un fattore di rischio negativo. Si sa che più scolarità incide positivamente sulla demenza, nel senso che si ha meno demenza. Però questi del 2012 avevano anche maggiore obesità, erano più diabetici, più ipertesi e cardiopatici, tutti invece fattori di rischio che si associano ad un aumento di demenza. Bene, tra il 2000 e il 2012 la prevalenza di demenza è passata dall'11.6 all'8.8. Sembra una piccola diminuzione, ma invece è una diminuzione importante, significativa, è un trend. E anche il declino cognitivo, cioè quelle fasi non di demenza, ma di appunto declino della capacità del nostro cervello di lavorare, anch'esso diminuito dal 21% al 18%. Insomma, il 20% in meno di probabilità di ammalare nel 2012 rispetto al 2000 di demenza. Il che è l'unica notizia positiva, perché dall'altra parte sappiate che farmaci che combattano la demenza, in particolare la malattia di Alzheimer, ancora non ce ne sono. E per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Una canzone per chi oggi brama cambiamento, evoluzione, verità, volare più in alto. Franco Battiato, Segnali di vita, dall'album La voce del padrone. Il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Si sente il bisogno di una propria evoluzione, sganciata dalle regole comuni, da questa falsa personalità.